Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. E ora, se c'è qualcuno che è incline a ritenere la mia storia immorale, perché ho sentito certa gente affermare che non ero uomo da meritare in sorte tanta prosperità, pregherò questi capziosi di farmi il favore di leggere la conclusione delle mie avventure. Vedranno allora che non avevo poi vinto un premio tanto grande, e che ricchezza, splendore, 30.000 sterline all'anno e un seggio in Parlamento vengono spesso acquistati a un costo davvero eccessivo, quando uno deve procurarsi questi piaceri a prezzo della sua libertà personale, e in più gli tocca farsi carico di una moglie guastafest. Sono dei demoni, queste mogli moleste, questo è certo, ma nessun uomo lo sa finché non impara a sue spese che fardello gravoso e avvilente sia una di queste donne, e come l'irritazione diventi più forte e più acuta di anno in anno mentre va mancando il coraggio di sopportarla, cosicché una seccatura che sembrava lieve e risibile il primo anno, 10 anni dopo, diventa insostenibile. Ho sentito parlare di uno di questi tizi dell'età classica, che si trovano nel dizionario, che incominciò col portare in spalla un vitellino fino alla cima di un colle ogni giorno, e mentre continuava così, l'animale crebbe fino a diventare un toro, e ancora lui se lo metteva in spalla con facilità. Ma credetemi sulla parola, cari signori che siete giovani e scapoli, sul groppone pesa molto di più una moglie che la più grassa giovenca. E se riesco a dissuadere uno solo di voi dalle nozze, le memorie del gentiluomo Barry Lyndon non saranno state scritte invano. Non che la mia signora fosse una brontolona o una bisbetica come certe altre, di questo avrei trovato il modo di curarla, ma aveva un carattere tutto timoroso, piagnucoloso, malinconico, languido, e questo lo detesto ancora di più. Qualunque cosa si facesse per farle piacere, non era mai contenta e di buon umore. Dopo un po' la lasciai perdere, e dato che, come era naturale nel mio caso, i dispiaceri domestici mi costringevano a cercare fuori di casa compagnia e divertimento, lei aggiunse a tutti gli altri suoi difetti una meschina, detestabile gelosia, e per qualche tempo non mi fu possibile mostrare a qualsiasi altra donna le attenzioni più elementari senza che Lady Lyndon puntualmente si mettesse a piangere, a torcersi le mani, minacciasse di uccidersi e non so che altro. La sua morte non mi avrebbe dato alcun conforto, come può ben capire chiunque abbia un minimo di accortezza, perché quel furfante del giovane Ballindon, crescendo, era diventato un ragazzone goffo e dalla carnagione scura, e si avviava a diventare la mia peggiore seccatura, una vera piaga. Il giovane Ballindon avrebbe ereditato la proprietà fino all'ultimo penny, e in più io sarei rimasto notevolmente più povero di quando avevo sposato la vedova. Infatti, oltre al reddito della signora, andavo consumando il mio patrimonio personale pur di vivere come si conveniva a gente del nostro rango. E d'altra parte, sono sempre stato troppo uomo d'onore e di carattere per mettere da parte un solo penny delle entrate di Lady Lyndon. Questo serve a tappare la bocca ai miei detrattori, che dicono che non avrei mai dilapidato così i beni dei Lyndon se non fossi stato occupato nel frattempo a raccogliermi un gruzzolo mio privato, o credono addirittura che anche nella mia penosa situazione di oggi io tenga mucchi d'oro nascosti da qualche parte e possa, solo che lo voglia, saltar fuori all'improvviso ricco come un creso. Non ho mai ricavato uno scellino dagli averi di Lady Lyndon senza spenderlo da uomo d'onore, e mi sono anche gravato di innumerevoli obbligazioni personali per crediti in denaro, tutti fondi che andarono ad arricchire la nostra cassa comune. Lasciando fuori dal conto le ipoteche e gli altri vincoli sui beni dei Lyndon, io personalmente ho debiti per almeno 120.000 sterline, denaro che spesi quando amministravo la proprietà di mia moglie. Perciò posso dire a buon diritto che tale proprietà è in debito verso di me della suddetta somma. Ho già raccontato come un profondo disgusto, una vera antipatia per Lady Lyndon si fosse rapidamente impadronita del mio cuore. Benché non facessi mai particolari sforzi per nascondere i miei sentimenti, io sono un uomo tutta franchezza e ho sempre il cuore in mano. Lei aveva un animo così servile che mi perseguitava con la sua devozione, nonostante la mia indifferenza verso di lei, e si ringalluzziva alla minima parola gentile. Il fatto è che, per parlare in confidenza al mio rispettabile lettore, io ero uno dei giovanotti più belli e brillanti dell'Inghilterra di allora, e mia moglie era follemente innamorata di me, anche se, qui lo dico e qui lo nego, lei non era l'unica donna di alto rango a Londra che guardasse con favore all'umile avventuriero irlandese. Che rompicapo sono queste donne, mi sono detto spesso. Ho visto le creature più eleganti di St. James impazzire d'amore per gli uomini più rozzi e volgari, le donne più intelligenti ammirare i membri più illetterati del nostro sesso, e così via. Non c'è limite alle contraddizioni di quelle sciocche creature. E benché non intenda suggerire che io sia volgare o illetterato, come le persone a cui alludevo prima, taglierei la gola a qualsiasi uomo che si azzardasse a mormorare una sola parola contro la mia nascita o la mia educazione. Io ho comunque mostrato che Lady Lyndon avrebbe avuto ottime ragioni per non amarmi, se solo l'avesse voluto. Ma come tutto il resto del suo sciocco sesso, era guidata dalle sue infatuazioni, non dalla ragione, e fino all'ultimo giorno della nostra vita in comune fu pronta a riconciliarsi con me e a coprirmi di carezze se le dicevo una sola parola gentile. «Ah», diceva in questi momenti di tenerezza, «a Redmond, se tu fossi sempre così!» E nei suoi accessi d'amore era la persona più cedevole del mondo e avrebbe alienato con una firma tutto il suo patrimonio se fosse stato possibile farlo. Devo anche confessare che era sufficiente una piccolissima attenzione da parte mia a metterla di buon umore. Passeggiare con lei sul Mall, accompagnarla alla chiesa di St. James, comprarle un piccolo dono o un gioiellino qualunque. Bastava questo a conciliarmela. Tale è l'incostanza femminile. L'indomani probabilmente mi avrebbe chiamato Mr. Barry, lagnandosi del suo misero fato che l'aveva unita a un simile mostro. Era così che si compiaceva di chiamare uno degli uomini più brillanti dei tre regni di Sua Maestà. Ma vi garantisco che altre signore avevano di me un'opinione ben più lusinghiera. Poi minacciava di lasciarmi, ma io l'avevo in pugno grazie a suo figlio, a cui era immensamente attaccata, non so proprio perché, visto che aveva sempre trascurato Ballingdon e non si era mai data pensiero della salute, del benessere o dell'educazione del suo primogenito. Era il nostro ragazzo, dunque, l'anello forte dell'unione tra me e sua signoria. Qualsiasi piano ambizioso io le proponessi, si trovava d'accordo con me se la cosa andava a vantaggio del povero bambino, ed era ansiosa di sostenere qualsiasi spesa, purché si potesse mostrare in qualche modo che serviva a innalzare la sua posizione nel mondo. Lasciatemelo dire, ne furono dispensati di pagamenti informali e anche in alto loco, tanto vicino alla reale persona di Sua Maestà che rimarreste sbalorditi se nominassi i grandi personaggi che accettarono di ricevere i nostri prestiti. Ottenni dalle consulte araldiche d'Inghilterra e d'Irlanda una descrizione e un albero genealogico dettagliato della baronia dei Berriog e chiesi rispettosamente di venire reintegrato nei titoli dei miei antenati e anche di essere insignito a ricompensa dei miei meriti della viscontea di Ballyberry. «Questa testa merita una coroncina», diceva a volte Milady nei suoi momenti di tenerezza, accarezzandomi dolcemente i capelli. Ed era vero che nella Camera dei Lord le loro signorie tengono parecchi marmocchietti che non hanno né la mia bella presenza, né il mio coraggio, né la mia antica stirpe, né alcuno dei miei meriti. La lotta per questo titolo la considero una delle più infelici tra tutte le mie infelici iniziative di quel periodo. Feci sacrifici inauditi per condurla a buon fine. Prodigai denaro di qua, diamanti di là, comprai terreni a 10 volte il loro valore, acquistai quadri e oggetti d'arte a prezzi rovinosi, Diedi più volte ricevimenti in onore di quei sostenitori delle mie istanze, che erano abbastanza vicini alla persona del re da poterle favorire. Persi anche molte scommesse con i duchi reali, fratelli di Sua Maestà, ma dimentichiamo queste faccende. Non vorrei che per via delle mie sventure private io mancassi di lealtà verso il sovrano. Di tutte le persone che ebbero parte in questa faccenda, l'unica che nominerò apertamente è quel vecchio mascalzone truffaldino di Gustavus Adolphus, tredicesimo conte di Krabs. Questo nobile personaggio apparteneva ai ranghi dei gentiluomini privati di Sua Maestà e tra costoro era uno dei pochi con cui il nostro riverito monarca avesse considerevole intimità. Fu proprio con questo gentiluomo poco raccomandabile che stabilì un'amicizia intima, ma infausta, quando, nuovo dell'ambiente e senza alcun sospetto, venni a vivere in città per la prima volta dopo il mio matrimonio con Lady Lyndon. Krabs era comunque uno dei compagni più divertenti che avessi mai incontrato e mi faceva davvero piacere stare in sua compagnia, anche a prescindere dal fatto che avevo interesse a frequentare un uomo tanto vicino alla persona del primo gentiluomo del regno. A sentir lui si sarebbe detto che non c'era praticamente nessuna nomina ufficiale a cui non avesse contribuito. Fu soprattutto su quest'uomo che io feci assegnamento per sostenere la mia istanza per la vita baronia di Berryog e per la viscontea che mi proponevo di ottenere. Uno dei maggiori oneri che questa mia ambizione mi impose fu la spesa per allestire e armare una compagnia di fanteria reclutata nei possedimenti di Castle Lyndon e di Hecton e da me offerta al mio grazioso sovrano per la campagna contro i ribelli americani. Queste truppe, superbamente vestite ed equipaggiate, si imbarcarono da Portsmouth nell'anno 1778 e il patriottismo del gentiluomo che le aveva arruolate fu così ben accetto a corte che Sua Maestà, quando gli venni presentato da Milord North, si degnò di rivolgersi a me in particolare, dicendo: «Bravissimo, Mr. Lyndon, ora arruolate un'altra compagnia e andatevene con loro!» Ma questo, come il lettore può immaginare, non mi passava neppure per la testa. Un uomo con 30.000 sterline all'anno sarebbe idiota a rischiare la vita come un mendicante qualunque. Beh, a questo proposito, ho sempre ammirato la condotta del mio amico Jack Bolter. Era un alfiere di cavalleria, tra i più energici e coraggiosi, pronto a gettarsi in ogni mischia o scaramuccia che trovava. Ma subito prima della battaglia di Minden venne a sapere che suo zio, il grande appaltatore di forniture militari, era morto lasciandogli 5.000 sterline annue. Jack immediatamente chiese il congedo e siccome glielo rifiutarono per via dell'imminente scontro campale, quel gentiluomo se lo prese da sé. Non sparò mai più un colpo di pistola in vita sua, tranne una volta, quando affrontò un ufficiale che aveva messo in dubbio il suo coraggio. Con fredda determinazione lo ferì, senza ucciderlo, mostrando così a tutti quanti che era soltanto per buon senso e per la voglia di godersi il proprio denaro e non certo per viltà che aveva lasciato il mestiere delle armi. Quando venne arruolata la compagnia di Acton, il mio figliastro, che ora aveva 16 anni, insistette moltissimo per avere il permesso di unirsi ad essa e io avrei acconsentito volentieri per disfarmi del giovane. Ma il suo tutore, Lord Tiptoff, che mi si opponeva in tutto, gli negò la sua autorizzazione e la vocazione militare del ragazzo restò frustrata. Se avesse potuto partecipare alla spedizione e il fucile di un ribelle l'avesse fatta finita con lui, a dire la verità, credo che non me ne sarei afflitto troppo e avrei avuto il piacere di vedere l'altro mio figlio diventare erede designato della proprietà che suo padre aveva conquistato con tanta fatica. L'educazione di quel giovane gentiluomo, Milord Ballington, era stata, e lo confesso, delle più disordinate. Forse la verità è che trascurai davvero quel marmocchio. Avevo un carattere così scatenato, così furioso e ribelle, che non avevo mai il minimo riguardo per lui, ed era così tetro, noioso, almeno davanti a me e sua madre, che con lui una buona istruzione mi sembrava sprecata e lasciai quasi sempre che si arrangiasse da sé. Per 2 anni interi rimase in Irlanda lontano da noi. Quando invece era in Inghilterra, lo tenevamo per lo più a Acton, perché non era il caso di portare quel ragazzo rozzo e sgraziato nella raffinata società della capitale, in cui noi ci trovavamo a nostro agio. Il mio povero figlio, invece, era il bambino più cortese e simpatico che si fosse mai visto. Era un piacere trattarlo con gentilezza e rispetto, e prima ancora di compiere 5 anni, il piccolino era già il fiore dell'eleganza, della bellezza e della buona educazione. Del resto non avrebbe potuto essere altrimenti, con tutte le cure che entrambi i genitori gli prodigavano e le attenzioni profuse su di lui in tutti i modi possibili. Quando aveva 4 anni, litigai con la balia inglese che l'aveva seguito fino ad allora, quella di cui mia moglie era stata tanto gelosa, e gli procurai una governante francese che aveva vissuto con famiglie parigine di prim'ordine. Naturalmente finì anche lei per suscitare la gelosia di Lady Lyndon. Sotto la guida di quella giovane, il mio furfantello imparò a ciarlare in francese in modo davvero incantevole. Era precoce in ogni cosa, imparò prestissimo a fare la caricatura a tutti. A 5 anni sedeva a tavola e beveva il suo bicchiere di champagne, proprio come noi. Altre volte la sua bambinaia gli insegnava qualche ballata francese o le ultime canzonette parigine. Erano canzoncine niente male, me lo ricordo. E lui faceva morire dal ridere quelli del suo pubblico che capivano il francese e scandalizzava, ve lo giuro, qualcuna delle vecchie matrone ammesse a frequentare la sua mamma. Non che fossero molte, perché io non incoraggiavo la gente cosiddetta rispettabile a visitare Lady Lyndon. Sono terribili guastafeste queste dame, pettegole, invidiose, meschine, seminatrici di zizzania tra moglie e marito. Ogni volta che uno di questi austeri personaggi con la crinolina e i tacchi alti facevano la sua comparsa, il mio massimo divertimento era di farle scappare via spaventate. Mettevo il mio piccolo Brian a danzare e a cantare e fare il diavolo a quattro, dandogli una mano anch'io a far paura a quelle vecchie mummie. Per Brian avevo dunque preso un giovane gentiluomo educato ad Oxford, il reverendo Edmund Lavender, con l'incarico di insegnargli il latino, quando il ragazzo era dell'umore giusto, e di trasmettergli i primi rudimenti di storia, di grammatica e di altre discipline necessarie a un gentiluomo. Lavender fu un acquisto prezioso per la nostra piccola società di Acton. Grazie a lui ci divertivamo un mondo. Era la vittima predestinata di tutti i nostri scherzi e li sopportava con una pazienza davvero ammirevole, degna di un martire. Lavender era una di quelle persone che preferirebbero venire prese a calci da un grande uomo piuttosto che avere solo la sua indifferenza. Ho piazzato molte volte sul focolare la sua parrucca davanti a tutta la compagnia mentre lui rideva dello scherzo insieme agli altri. Era una delizia metterlo in sella a un cavallino focoso e spedirlo dietro ai segugi. Pallido, sudato, fermatemi, gridava, in nome del cielo, e si aggrappava alla criniera e al sottocoda come a un'ancora di salvezza. Come fu che quel tipo non si facesse mai ammazzare, proprio non lo so, ma suppongo che a rompergli il collo sarà la forca. Nelle partite di caccia non gli capitò mai un incidente, nulla di grave almeno. Comunque potevate star certi di ritrovarvelo davanti a pranzo, al suo posto in fondo alla tavola, occupato a preparare il punch. Lo portavano a letto mezzo sbronzo prima della fine della serata. Quante volte io e Brian a quel punto gli abbiamo dipinto di nero la faccia. Lo mollavamo in una stanza stregata, ci fingevamo fantasmi e gli facevamo render l'anima dalla paura. Liberavamo eserciti di topi sul suo letto. Gridavamo al fuoco e gli riempivamo d'acqua gli stivali. Segavamo le zampe al suo pulpito e gli riempivamo di tabacco da fiuto il libro dei sermoni. Oh, il povero Lavender sopportava tutto con pazienza, ma alle nostre feste o nei suoi soggiorni a Londra ne era ampiamente ripagato quando gli permettevo di sedere accanto a gente distinta e di esultare